Allora, signori, buonasera. Prego. Ho preso un'icona e l'ho messa sopra un'altra, così l'altra è sparita. Perché io avrei dovuto aprire sì. Questo è stato rilevato. Esatto. Però poi col destro sono riuscita a mettere in ordine i file tracker, se no. Meno male. Allora, signori, prima di tutto avete. Mi ricordo che nella scorsa lezione vi avevo chiesto di dirmi quanti di voi ci sarebbero stati e quanti no. Allora, chi ci sarebbe la prossima lezione? Quindi direi che la prossima lezione si fa regolarmente il corso. Perfetto. Poi, da quest'anno, in realtà, su iniziativa di uno degli storici di questi corsi, ho iniziato a registrare le lezioni. In realtà ci sono già le lezioni anche dall'anno scorso, però per quest'anno mi sto mettendo il microfonino dalla scorsa lezione e le metto poi su internet. Se volete andare a recuperare quella dell'ultima lezione, magari, che ne so, se uno non è tanto pratico di internet, se lo fa fare un attimo da un conoscente, da un nipote o altro, potete andare a questo indirizzo, senza il www, è proprio così. E soprattutto attenzione alle minuscole e alle maiuscole. È tutto senza spazi. Quindi http://. Sì, come è scritto lì, è tutto senza spazi, ripeto, attenzione alle minuscole e maiuscole, il primo pezzettino è la data della lezione e il secondo è corso base con la C e la B maiuscole. Ora, per chi ha la connessione ad internet, basta che apra Internet Explorer o il programma col quale naviga, Chrome, Firefox o quel che è, e sulla barra scrive esattamente quella stringa, quindi is.gd bla bla bla, e schiaccia invio. Si trova di fronte questa videata. In questa videata, sostanzialmente, prego. In questa videata, sostanzialmente, basta che voi andiate a cliccare su questo triangolino qua, questo qua, che è il classico simbolo del play in tutti i lettori digitali. Quindi schiacciate il play del lettore digitale, questo parte e voi potete ascoltare sostanzialmente quello che è stato detto la scorsa settimana. E di settimana in settimana sostanzialmente andrò a fare sempre la stessa cosa. Quindi di settimana in settimana io comunque ve lo ripeterò l'indirizzo, ma alla fine dovrete semplicemente andare a scrivere la prossima settimana, di solito lo faccio tipo il lunedì o il martedì, quindi magari già dal mercoledì o giovedì potete andare a vedere la lezione della settimana successiva, sarà ovviamente is.gd/2011-12-02 corso base. Quindi sempre tutti con lo stesso formato. D'accordo? Sì, allora, l'indirizzo è questo. Gli indirizzi saranno sempre fatti in questa maniera qua. Cioè, anno, mese, giorno. Esatto, invece di 2011-11-25 sarà 2011-12-02. E poi corso base. Quella di questa sera, eh? adesso vediamo. D'accordo, signori? Quindi, poi la lezione di questa sera, ripeto, tra mercoledì e giovedì dovreste già iniziare a vederla online. No, le fa di seguito. Per chi volesse scaricarsela sul computer, allora, quindi per ascoltarla, ripeto, basta schiacciare su questo pulsante play, ok. Per chi volesse ascoltarsela sul computer, deve andare a cliccare su questo link, poi li vedremo quando faremo internet, i link. Quindi la voce, il numerino che c'è sotto ha VBR MP3. E la scaricate in questa maniera sul vostro computer, rimane in memoria sul vostro computer. Dopodiché può essere... Esatto. Non ho capito. Sì. Ma ripeto, di lezione in lezione quel numero lì sarà diverso, no? Scrivetevi il numero sotto la scritta VBR MP3. Allora, Og Vorbis in realtà è il file originario ed è sostanzialmente un formato MP3 ma open source. Per cui il cellulare registra, poi me lo converti in Og Vorbis, io lo carico sul sito e il sito lo riconverte anche in MP3, perché non tutti i lettori riescono a leggere Log Vorbis. Il 20 prima della data, che cos'è? 2011-25. D'accordo a tutti, signori? E devo ancora metterle, ma in realtà quelle del corso base, sì, è questa qua, quelle precedenti in realtà non ci sono perché non avevo ancora il microfono, per cui invece da quella della scorsa settimana a quelle successive adotterò questo sistema qua, la stessa cosa, solo che al posto di esserci scritto corso base ci sarà scritto corso avanzato, quindi sempre la stessa cosa. Sì, semplicemente se lo volete registrare e scaricare sul proprio computer, sotto la scritta VBR MP3 c'è un numerino. Cliccate su quel numerino e lui vi permette di scaricarlo. Qua, signori. Ripeto, quel numero cambierà di volta in volta perché lì dipende da quanto è lunga la lezione, se finisco 5 minuti prima o 5 minuti dopo e via. D'accordo? E tra l'altro lo consiglio, se qualcuno di voi casomai avesse delle lezioni o conoscesse qualcuno, lo consiglio questo sito perché è favoloso, perché permette di immagazzinare parecchi file audio. Anche perché facendo un rapido calcolo, dato che abbiamo fatto queste lezioni, facciamo un rapido calcolo. Se io immagazzinassi tutte le lezioni, allora noi iniziamo i corsi più o meno a fine ottobre. Quindi partiamo da novembre e così calcoliamo tutto dicembre, che in realtà sono il recupero di ottobre. Quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, sono 8 mesi di corso, giusto? 8 mesi di corso, calcoliamo 4 lezioni, grosso modo, per ogni corso. Ok? Giusto? E quindi sono 32 lezioni. Calcoliamo Io di solito carico questo, quindi mettiamo una quarantina per fare i conti semplici. Una quarantina di megabyte a lezione e sono 0,8, sono 1280 megabyte. Quanti sono 1280 megabyte? Un giga e 28. D'accordo? Già su un CD-ROM non ci sta. Siete tutti d'accordo? Sì. Perché il CD-ROM contiene solo fino a 700 mega, per cui su un CD-ROM non ci sta. Se in più carico anche le lezioni del secondo corso, sono 256 giga. Se lo faccio per 5 anni, ci sono una quindicina di giga. Non mi basta una chiavetta. E di quelle potenti. A qua 5 anni le chiavette saranno ben più grosse, però diciamo ad oggi, se volessi caricarli anche quelle precedenti, non posso farlo. No, quella lì vi scarica una lezione, quella vi scarica una lezione. Però quello era un calcoletto che mi ero fatto io, infatti gli anni scorsi Vanni aveva registrato tutte le lezioni e io non le mettevo mai online, probabilmente si sarà anche chiesto, ma perché non le metti mai online se io tutte le volte me le porto? Il mio problema fondamentale è che non sapevo dove metterle, perché trovare un servizio che ti dia un giga e due per un corso e un giga 2 per l'altro, quindi 3 giga di spazio, fino all'anno scorso era pressoché impossibile, per cui a chi me le chiedeva gliele davo su chiavetta. Questo qua sembrerebbe, da cosa ho capito, che permetta di immagazzinare ad oltranza. E si sente molto meglio perché ce l'ho qua, quindi sicuramente. Va bene. Allora, i vostri interventi, allora la signora con gli occhiali rossi, no, in realtà mi hanno detto che le persone che intervengono si sentono molto lontane, per cui praticamente non si sentono, infatti un corsista del secondo corso mi ha detto appunto di far parlare le persone più forte, però è difficile, cioè dovrei venire con il microfonino. Raffaele, non posso farli parlare. D'accordo. Non c'è stasera. Taglia copia e incolla. Allora, signori, la lezione scorsa, quindi, abbiamo iniziato a vedere uno dei concetti fondamentali dell'informatica in generale, cioè la possibilità di copiare, spostare o collegare dei file o delle cartelle. Quindi lo ripetiamo brevemente, le operazioni che sono necessarie per fare queste operazioni, innanzitutto è necessario aprire l'esplora risorse o risorse del computer, che dir si voglia, andare a selezionare uno o più oggetti. E qua viene in aiuto il discorso del control click se gli oggetti non sono vicini o shift click se gli oggetti sono adiacenti gli uni con gli altri. Visualizzare sulla sinistra la destinazione, ma abbiamo visto gli ultimi minuti della lezione scorsa che in realtà non è per forza sulla sinistra. Se fosse il desktop, ad esempio, dovrei semplicemente ridimensionare la finestrella e rendere visibile il desktop. E trascinare con il pulsante destro i file a destinazione. Nel momento in cui lascio il mouse, il pulsante del mouse, mi appare un menu a tendina e in questo menu a tendina ci sono le opzioni copia, sposta o crea collegamento. Se qualcuno di voi avesse provato a utilizzare il pulsante sinistro anziché il pulsante destro, si sarà reso conto che questa menu a tendina non appare e lui semplicemente fa qualcosa. a volte sposta, a volte copia. Non, ovviamente non è che lo faccio in maniera casuale, ci sono dei casi in cui copia e dei casi in cui sposta. Però ripeto, secondo me per degli utenti che iniziano a usare il computer oggi non vale la pena anche ricordarsi quali sono i casi in cui copia, quelli in cui crea collegamento, quelli in cui... Tanto vale fare un trascinamento col destro e fare un click in più. Almeno quello che io voglio che lui faccia, io lo dico con il click in più. D'accordo per tutti? E oltretutto la cosa più interessante, a mio avviso, è anche il fatto che lui rimane lì bloccato. Io sto parlando con voi, lui rimane lì bloccato, per cui io ho tutto il tempo di capire dove sto andando ad infilare i file, che è una delle cose più importanti, e so che è lì dove c'è il mio mouse, e quali sono i file che sto andando a copiare, spostare. D'accordo? Con il quadrato che c'è in mezzo tra il trattino sottolineato e la X. Con quello si riduce la finestra. L'avevamo visto proprio nelle prime lezioni. C'è la X che chiude, il quadrato che allarga o restringe. Mi segue? Ok, con questo qua. Una volta mette tutto schermo, una volta riduce. Si restringono tenendo memorizzato sostanzialmente l'ultimo, poi con questi pulsanti qua, con il ridimensionamento della finestra che abbiamo visto un po' di lezioni fa, si può anche ridimensionare ulteriormente la finestra stessa. Grazie. Che tasto teneva adesso? Punto solo sulla I. No, non sulla X, attenzione, ma sul bordo. È un po' più a destra della X. Sì, sì. E che tasto premeva? Il sinistro. Ah, il sinistro. Sinistro. Ora, andiamo a vedere come si fa la copia e lo spostamento con un altro metodo. Che è il taglia, copia, incolla. Ora signori, il taglia, copia, incolla è uno dei concetti fondamentali del mondo informatico ed è uno, a mio avviso, dei motivi per i quali l'informatica negli anni ha avuto questo spopolamento. Una volta se io volevo ricopiare un libro da un'altra parte, c'erano gli amanuensi che andavano a scrivere. Poi sono arrivate le fotocopiatrici, che sì, ok, fotocopiavano, ma se io già volevo cambiare qualcosa, comunque me le devo andare a rifare. Poi sono arrivate le macchine dattilografiche, o forse prima le dattilografiche, poi le fotocopiatrici, poco importa, ma comunque anche nelle macchine dattilografiche io andavo a scrivere, ma se sbagliavo qualcosa, dovevo comunque riandare a rifare tutto il foglio. Ebbene, il computer invece è uno dei plus sicuramente maggiori nel mondo dell'informatica è senza dubbio il taglia, copia, incolla. Il taglia, copia, incolla mi permettono di prendere degli oggetti o, come vedremo in Word e in Excel, o parte di essi, saluta, o parte di essi, quest'ultima affermazione non vale per i file, vale per i programmi, perché il file o lo prendo tutto o non lo prendo proprio. Quindi degli oggetti o parte di essi e metterli in un'altra posizione. Un esempio di questo discorso, adesso poi vediamo come lo faccio, un esempio di questo discorso è se io avessi l'indirizzo internet qua e lo volessi mettere sul mio programma per navigare. Una volta che l'ho scritto, non vado nel programma per navigare e lo riscrivo. Ma adesso non vi preoccupate di come faccio, lo andiamo a spiegare fra 5 minuti. È solo per farvi vedere che io ve lo spiego con i file, ma vale in tutta l'informatica, non solo per i file. Faccio un copia, dopodiché vado sul programma che mi serve per navigare e faccio un incolla. Quindi il testo che c'era scritto in Word lo vado ad inserire anche sul programma di navigare. Capite bene che questo discorso io lo posso fare da un'email a Word, da Word a un'email, da un Excel a Word, da dove voglio. Noi didatticamente lo vediamo in questo contesto, ma è un concetto che ci porteremo dietro fino alle ultime lezioni. Quindi imparatelo bene, imparatelo presto, perché è un concetto senza dubbio molto molto importante. Allora, innanzitutto, taglia, copia e incolla servono per, abbiamo detto, spostare o copiare. Andrò a fare le operazioni taglia e incolla se voglio spostare, andrò a fare l'operazione di copia ed incolla se voglio copiare. Quindi sostanzialmente che cos'è che voglio fare vedere con questo piccolo breve schermino? Che l'incolla ci vuole sempre. A seconda che io voglia spostare o copiare, o andrò a fare taglia o andrò a fare copia. D'accordo? E allora vediamo le operazioni che mi servono. L'operazione 0 è apro esplora risorse. Guardate bene che, ripeto, in futuro invece che esplora risorse sarà Word, sarà Excel, sarà la mail. Non gli piace Raffaele? Ah. Quindi il punto 0 apro e esploro risorse. Il punto 1 seleziono gli oggetti. E fino qua nulla cambia rispetto a quello che abbiamo fatto la lezione scorsa. Punto 2 taglio per spostare o copio per copiare. Lasciate un pochino di spazio qua sotto. Punto 3. Clicco a destinazione. Cosa vuol dire destinazione? Vuol dire dove voglio posizionare gli oggetti. Punto 4. Incollo. Allora, cosa succederà quando io andrò a fare un taglia, secondo voi? L'oggetto sparisce, d'accordo? Quando io vado a fare un'operazione di taglia, così come se io la facessi su un indumento, io vado a tagliare un pezzo dell'indumento, chiaramente il pezzo dell'indumento si sfila e quindi lo tolgo da dove era. Se io vado a fare un'operazione di copia, in realtà che cosa succede all'oggetto? Rimane lì. Quindi mi sembrerà che non sia successo nulla, perché l'oggetto continuerà a rimanere lì. In realtà che cosa è successo in entrambi i casi? Dove è finito questo oggetto? Sia che io lo vedo sparire, sia che lo vedo rimanere lì. Rimane dove? Moria quale? Va a finire momentaneamente nella memoria RAM. È già nella memoria di massa, signori. Perché se non fosse nella memoria di massa, lì non lo vedrei. Sia che io vado a fare un taglia, sia che io vado a fare un copia, questo va a finire in memoria RAM. Attenzione, signori, lo ripeto, è già nella memoria di massa. Perché se non fosse nella memoria di massa, non lo vedrei qua, nell'Explorer Resource. Perché lo dico per l'ennesima volta, l'Explorer Resource mi serve per vedere le risorse del computer, ma le risorse del computer sono le memorie di massa. Posso cancellare? Ora, ci rimane da capire come faccio a fare le operazioni di taglia, di copia e di incolla. Quindi, facciamoci una tabellina. Mettiamo taglia copia e incolla sulla colonna. Vediamo come si fa con il mouse. Con la barra strumenti e con la tastiera. Quindi vediamo con il mouse, con la barra degli strumenti e con la tastiera. Col mouse, che personalmente è il metodo che io vi consiglio, soprattutto all'inizio, è il metodo più semplice, perché col mouse il taglia si fa con il clic destro taglia, il copia si fa con il clic destro copia, ed incolla come si farà mai? Clic destro, incolla. Quindi senza dubbio il taglio copia incolla, il metodo più semplice, quantomeno all'inizio, è andarlo a fare con il mouse. Con la barra degli strumenti invece, ve li faccio vedere su Word, sono quei pulsanti in alto a sinistra perché non ho delle grosse doti nel disegno. Allora, il taglia si fa con una forbice. La vedete in alto a sinistra che c'è una forbicina? Vabbè, scrivetevi con una forbice. Il copia ha due fogli, uno sopra l'altro, il taglia lo vedete qua, signori, lo vedete? Il copia lo vedete qua, l'incolla invece è questo pulsante che ho sempre delle grosse difficoltà a disegnare, che è sostanzialmente, avete presente le cartelline con la clip sopra? Ed un foglietto in mezzo. Se viceversa vi piace, come a me, di più l'utilizzo della tastiera, con la tastiera il taglia si fa con il CTRL più X, il CTRL l'abbiamo già visto, quello della selezione multipla, no? Quindi tengo premuto il CTRL e mentre lo sto tenendo premuto schiaccio la X. Il copia si fa con il CTRL più C, l'incolla col CTRL più la V di Vittorio. Ecco, questo suono, non mi ricordo, cos'è, un Sony Ericsson col messaggino? O è scarico? È scarico, ma cos'è un Ericsson? È un Ericsson? Ah, Motorola. Sì, sì. No, no. Non importa. C'è una X, stava chiedendo. Cioè, più X in alto o più X sulla tastiera? Allora, uno è CTRL, CTRL più X, CTRL più C, CTRL più V. Era il refuso della lezione di matematica. Questi, allora. Allora, il mouse si trova lì. Questi simboli, i simboli invece della barra degli strumenti, non si trovano sempre a sinistra. Nelle ultime versioni di Office, sì, si trovano sulla sinistra. Sulla barra degli sull'esplora risorse non sempre ci sono. La X, la C e la V, invece, sono tre pulsanti, scrivetevelo, che sulla tastiera si trovano uno di fila all'altro. Per cui voi non c'è bisogno di che vi ricordiate, ah, X cosa fa, Y cosa fa, Z. Basta che vi ricordiate la X che taglia, e si ricorda, la C che copia, e si ricorda, la V è la lettera dopo. Quindi taglia, copia, incolla, sono X, C, V. Sulla tastiera, è la prima riga della tastiera. È la prima riga della tastiera, X, C, V. Ok? Vedete che ad esempio sull'Explore Resource i pulsanti non ci sono, ok? Chi ha magari il Windows XP probabilmente ce l'ha i pulsanti, chi ha il Windows 7 probabilmente questi pulsanti non ce l'ha, ma poco male, tanto poi comunque li rivedremo quando faremo Word. L'importante è che voi impariate che ci sono più modi per fare le stesse operazioni. Poi che voi le facciate col mouse, che voi le facciate con la barra, che voi le facciate con la tastiera, è la stessa identica cosa. Allora, proviamoli a vedere questi metodi. Allora, ritorniamo agli esempi che avevamo fatto la lezione scorsa, ovvero gli esempi in cui c'erano carne e verdure dentro documenti e che io carne e verdure li voglio spostare dentro ricette, d'accordo? Quindi abbiamo detto, apro il mio bel Explorer Resource, seleziono gli oggetti che voglio spostare o copiare, quindi in questo caso carne e verdure, e fino a qua è la stessa identica cosa che abbiamo fatto settimana scorsa. Cos'è che cambia questa volta? Siccome io li voglio spostare, settimana scorsa noi che cosa facevamo? Facevamo il trascinamento destro sotto ricette, è vero? Questa settimana invece che cosa faccio? Clic destro, taglia. D'accordo? E se seguite lo schemino che vi ho fatto scrivere, li voglio spostare, per cui vado a fare clic destro, taglia. Questi oggetti, vedete che diventano con un colore più sbiadito? Perché? Perché lui mi sta dicendo, guarda che nel momento in cui fai un'incolla, quelli lì spariscono. Il punto 3, se non ricordo male, è clicco a destinazione, quindi destinazione sarà ricette. Il punto 4 è clic destro, incolla. Clic destro, incolla. E appaiono lì. D'accordo, signori? Chiaro per tutti? La fai tutte e due assieme? Sì, perché li avevo selezionati insieme. Se io voglio incollare solo una parte di quello che ci sta dentro la ricetta, devi andare a selezionare solo una parte di quello che sta dentro la ricetta. Per selezionare devi andare a evidenziare. Sì, sì. Signori, se voi volete andare a selezionare soltanto una parte, cioè se voi volete andare a copiare soltanto una parte, dovete andare a selezionare solo quella parte, cioè il meccanismo è sempre lo stesso. Proviamolo a vedere, sì, ve lo faccio vedere anche su Word, perché ripeto, è un concetto che in realtà vale dappertutto. Su Word, invece di file e cartelle, si parlerà di testo e di immagini. Se io volessi andare a copiare solo una parte di questo testo, vado a selezionarmi solo una parte di questo testo. clic destro, copia. Dopodiché vado per esempio un pochino più in basso, clic destro, incolla. È chiaro il meccanismo? Qua si vede più semplicemente perché è tutto lì. È chiaro per tutti? Per i file l'unica complicazione, ma secondo me è un po' altisonante parlare di complicazione, è che mi devo spostare da una cartella all'altra. Tutto lì. Quindi lo faccio rivedere. Se io voglio ricette, le carne e verdure dentro le ricette, seleziono carne e verdure, poi abbiamo detto punto 1, seleziono, punto 2, taglio, clic destro, taglia, esatto, lo rifà, clic destro, c'è la tendina e faccio clic su taglia. Punto 3, mi posiziono a destinazione e questa volta badate bene che mentre la lezione scorsa vi dicevo che non si doveva cliccare sulla destinazione, stavolta ci devo proprio cliccare. E a destinazione vado a fare clic destro, lui mi fa apparire il solito menu a tendina, questa volta schiaccio su incolla. D'accordo? Le cartelle carne e verdura in documenti sono scomparse. Chiaro per tutti, signori? Perfetto. Sì. Sì, sì. A destinazione ci si va sempre col sinistro. Ora, stessa cosa se si vuole fare l'operazione con la tastiera o con la barra degli strumenti. Con la barra degli strumenti, vedete che io vado a selezionare una parte del testo, vado a cliccare su taglia, lo vedremo poi su Word, però comunque sostanzialmente si può fare nello stesso identico modo in cui si faceva con i file. Clicco all'inizio del testo e vado a fare shift più click alla fine del testo. Proprio come faccio con i file. Per quello che ho messo parecchia enfasi su quei metodi, perché poi li vedremo su Word, li vedremo su Excel. Quindi su Word, ad esempio, posso andare a utilizzare il pulsante taglia. E qua si vede proprio bene, guardate un secondo. Clicco su taglia, scompare il testo. Vado in un altro punto, clicco su incolla e il testo che avevo tagliato da una parte appare da questa parte. D'accordo? Se ancora volessi farlo con la tastiera, seleziono una parte del testo, questa volta selezioniamo ad esempio questo, seleziono una parte del testo, vado a fare ad esempio un copia, quindi CTRL più C, mi sembra che non sia successo nulla, ma in realtà abbiamo detto va a finire in memoria RAM, dopodiché mi sposto in un'altra posizione e vado a fare CTRL V. D'accordo? Diciamo che la tastiera è un metodo anche più... secondo me è più veloce, sì, perché se uno ha un minimo di confidenza con la tastiera, ha la mano sinistra lì, CTRL C, CTRL X, CTRL V e lo fa più velocemente. Mi rendo conto che per chi non è abituato a usare il computer magari lo trovo un po' più ostico. Però diciamo che poi più avanti è anche quel qualcosa in più che quando arriva magari il nipotino smanettone che ci dà sempre punti, gli facciamo il magheggio sotto mano, toh, beccati questa, CTRL C, CTRL V, e gli spostiamo il testo da una parte all'altra. D'accordo, signori? Quindi provate a rifare l'esercizio della lezione scorsa, quindi quello di andare a spostare le cartelle da una parte all'altra, questa volta con il taglia e incolla, e vedete che spariscono, poi magari le riportate di nuovo da dove le avete prese col copia e incolla e vedete che sono sia da una parte che dall'altra. Ok? Domande? Dica. Quando dobbiamo selezionare il corpo, per selezionare alcune parole in una frase, si clicco all'inizio, voglio andare a scuola domani, io voglio selezionare voglio andare a scuola domani no, quindi mi metto su voglio, clicco, vado fino alla fine, riclicco, o faccio... Ari, le risponde la signora che con i capelli rossi. Sì, sì, però ma le risponde la signora con i capelli rossi e gli occhiali bianchi perché l'avevo particolarmente interessata alla sua domanda. Ah, ok. No, perché la vedevo... No? Aspetti che vado a vedere la risposta. Sì, funziona nello stesso identico modo che per i file. Là si parlava di file adiacenti, qua parlo di testo adiacente. Per cui funziona esattamente come lei ha descritto. Vado a cliccare. Vado a cliccare sull'inizio delle parole che voglio selezionare, mi posiziono alla fine senza cliccare e faccio shift più click. E lui mi seleziona esattamente quel pezzo. Quindi clicco all'inizio di dove voglio iniziare e poi vado di dove voglio. Sì? Shift più click. Esatto. Che è esattamente quello che abbiamo spiegato per i file. Esattamente quello che abbiamo fatto per i file. Perché abbiamo detto, quando i file sono vicini, non dobbiamo fare altro che andare a cliccare sul primo, vado sull'ultimo senza cliccare, shift più click, e lui mi seleziona tutto quello che sta in mezzo. D'accordo? Perfetto. Stessa cosa. Beh, sul desktop no, perché deve andarlo a salvare come un altro file. Lo può spostare su un altro file di Word. Ne apre un altro, preciso. Non è indispensabile che lei lo chiuda. Ne apre un altro. Sì, sì, sì, sì. Assolutamente. Cioè, il bello dell'informatica, bello o brutto dell'informatica, lo dico tutti gli anni, è che è molto logica. Cioè, il punto 4 dice, clicca a destinazione. Ora, se la destinazione è un altro file di Word, mi segue proprio il ragionamento, la destinazione è un altro file di Word, il file di Word è aperto? No, lo apro, fatta la destinazione. Cioè, è molto logico. Non... Cioè, una volta che uno ha questi quattro passaggi, devo solo capire come fare un passaggio anziché l'altro. Però è veramente estremamente logico come procedimento. Prego. Io oggi, per esempio, volevo dentro una cartella nuova che ho creato. Sì. Ho provato a fare copia e incolla per mettere una traduzione che avevo preso da Google. Sì. E mi veniva fuori incolla. Cioè, copia me lo faceva. Certo, attenzione perché se voi fate il copia e incolla, chiaramente il copia e l'incolla dovete andarlo a fare su oggetti simili. Mi spiego. Se io voglio prendere delle mele e andarle ad incollare da qualche parte, dove le vado a incollare le mele? O in una cassetta della frutta o sulla tavola. Non le posso andare a incollare sulla testata di un motore, perché sono due oggetti che fra di loro non ci azzeccano niente. Quindi se lei mi copia del testo, così rispondo alla sua domanda, non può andarmelo ad incollare dentro una cartella, perché dentro la cartella Porello non ci sta. Cosa ci sta nella cartella? Il file. Quindi deve andarlo a copiare all'interno di un file, perché è il file che sta dentro la cartella. E come faccio? Poi lo vedremo. Poi lo vedremo. No, ma signori, e così rispondo nuovamente anche al signore. Vede com'è logico il costrutto? Dentro la cartella che ci stanno? I file o delle altre cartelle? Non ci posso infilare del testo. Il testo lo devo infilare dentro un file. Come lo vedremo più avanti, vedremo anche come salvare i file, però è molto logico, molto logico. Il testo dentro una cartella non ci può stare, a meno che non sia dentro un file. Ci arriveremo poi comunque. Ma la stessa cosa, anche sul desktop ci può andare soltanto un file. Per cui prima dobbiamo imparare come fare a salvare i file e poi potremo mettere quel pezzo di testo da Google dentro un file e il file dentro una cartella o dentro il desktop. Ok, allora signori, se non ci sono altre domande io andrei avanti e inizierei sempre riferito a Windows, un nuovo capitolo che sono le proprietà degli oggetti. Le proprietà degli oggetti. Sì. Allora, prima di tutto andiamo a vedere le proprietà di un file. Le proprietà di un file. Allora, prima di andare a spiegare che cosa c'è e che cosa non c'è nelle proprietà di un file, lo facciamo vedere perché è più facile da farsi che non da raccontarsi. Allora, per vedere le proprietà di un file, apro Esplorare Risorse. Seleziono un file. Quindi ci clicco sopra. Clic destro. E poi vado a fare clic sull'ultima delle voci del menu a tendina, perché vi ricordate che il clic destro fa apparire il menu a tendina, che è la voce proprietà. Quindi clicco su un file, clic destro e vado a cliccare sull'ultima delle voci che è la voce proprietà. Così facendo mi appare una finestra. Questa è una finestra informativa. Proprietà. Allora, dicevo, questa è una finestra informativa. Cosa vuol dire informativa? Vuol dire che non vi sta chiedendo conferma di qualcosa. Se vi ricordate, quando noi avevamo cancellato i file e le cartelle, quella non era una finestra informativa, ma era una finestra che mi stava chiedendo qualcosa. Si chiamava finestra di dialogo, perché sta dialogando con me e mi sta chiedendo qualcosa. Vuoi cancellare il file? Sei sicuro? Mi sta chiedendo qualcosa. Qua invece semplicemente mi dà delle informazioni. Allora, introduciamo un concetto che non abbiamo ancora visto. Alcune finestre hanno delle schede. E le vedete qua in alto. Vedete generale, sicurezza, dettagli. Questa finestra ha delle schede. Queste schede qualcuno le chiama linguette, qualcuno le chiama in altri modi, non mi viene in mente. Comunque, insomma, le schede sono proprio tipo le linguette, avete presente delle vecchie rubriche telefoniche? Quando si metteva la linguetta A, B, C, D, uno pigliava la linguetta C e si trovava la pagina del C. Qua è la stessa cosa. Se io clicco sulle varie schede, mi cambia la finestrella. Guardate solo un secondo, se io clicco su sicurezza, vedete che cambia? Se clicco su dettagli, vedete che cambia? Se clicco su versioni precedenti, vedete che cambia. Quindi se io clicco su ciascuna delle schede, mi cambia, quindi la finestra rimane sempre quella, ma mi cambia ciò che mi visualizza. Ora, di versione in versione, questa finestra un pochino cambia, o meglio, cambiano le schede. Per cui noi ci concentriamo sulla scheda iniziale, che è la scheda generale, e vediamo cosa c'è nella scheda generale. Allora, la prima informazione che mi dà è un'icona con il nome. In realtà noi queste informazioni qua ce le avevamo già dall'esplorare risorse stessa, no? Perché ogni file ha un'icona ed un nome associato. Quello che però inizia ad essere interessante è che mi dice il tipo di file. In questo caso mi dice immagine. Quindi se io non so quell'icona a cosa è associata, nel tipo di file lui mi dice guarda che quel file lì è un'immagine. Guarda che quel file lì è un file di Microsoft Word. Guarda che quel file è un file di Excel, ok? Lasciamo stare l'apricon. Mi dà poi il percorso. Ora, il percorso è importante perché? Perché mi dà dove si trova il file nell'albero delle cartelle. Vi ricordate quando abbiamo fatto l'albero delle cartelle C, sottocartella, document and settings, sottocartella, bla bla bla. Ecco, lui vi dice il percorso, cioè dove si trova esattamente il file. Vedete che ritorna la lettera C, D, il C che cos'è abbiamo detto? L'hard disk, eh? Quindi qua vi dirà C due punti e dove si trova il nostro file, o C o D, a seconda che sia su una chiavetta anziché su un CD-ROM anziché da un'altra parte. Vi dà poi le dimensioni, non curatevi particolarmente delle dimensioni e delle dimensioni su disco. Solitamente le dimensioni su disco sono un pochino più grosse. È un tecnicismo, non entriamo in questo tecnicismo perché è inutile ai nostri scopi, anche perché vedete che uno è 561 kilobyte e l'altro è 565 kilobyte, per cui c'è relativamente poco di differenza tra gli uni e gli altri. Quello che mi interessa comunque solitamente sono le dimensioni su disco, quindi la seconda voce. E quello mi dice esattamente quanto è grosso quel file. Perché mi può interessare quanto è grosso il file? Sapere quanto spazio mi occupa, ma in realtà non mi cambia la vita sapere quanto spazio mi occupa. Se è molto importante, se io ad esempio lo voglio spostare o copiare su un altro dispositivo. Perché se io quel file lo voglio spostare o copiare su una chiavetta, devo sapere quanto è grosso sto file. Poi, per carità, se provo a spostarlo e non c'è spazio, il computer mi dice, attenzione, la chiavetta è piena. Però comunque uno sa in anticipo se ci sta o meno. Dopodiché ci sono tre date, che sono la data di creazione, di ultima modifica e di ultimo accesso. Queste tre date ovviamente possono anche coincidere e qua infatti coincidono. Ma sempre su tutti i documenti? Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, la data di creazione che cosa è? È la data nel quale io ho creato il file, ovvero ho fatto il primo salvataggio. E ripeto, noi ancora non abbiamo visto come si salvano i file, lo vedremo fra qualche lezione con Word. Per il momento prendete buona questa affermazione. Quindi la data di creazione è la data del primo salvataggio. Cioè la prima volta nella quale io ho salvato quel file. Ultima modifica. L'ultima modifica invece rappresenta l'ultima volta in cui ho salvato il file. Viceversa, l'ultimo accesso è l'ultima volta che ho aperto il file, ma non necessariamente l'ho salvato. Ora, le tre date possono coincidere nel momento in cui io apro un documento, ci faccio delle modifiche, lo salvo per la prima volta e poi non lo apro più. In quel caso la data di creazione, ultima modifica e ultimo accesso sono le stesse. Ma se un file io lo creo oggi, provate a pensare ad esempio a una fattura. Una fattura io la creo oggi, la salvo e la chiudo. Fra due giorni il cliente mi dice, ascoltami, mi ero dimenticato di mettere anche questo prodotto, la vado a riaprire, la modifico e la risalvo. E quindi già la data di creazione con la data di ultima modifica saranno diverse. Dopodiché fra un mese mi chiede, senti ma mi dici l'ammontare complessivo della fattura, io la riapro, non cambio nulla, ecco che le tre date sono differenti. D'accordo? Sì. Quindi Vuol dire che io semplicemente l'ho aperto, l'ho guardato, ma non ho salvato niente. Sì, sì, sì. Sì, cambierà probabilmente la data di ultimo accesso. Ma dicevo che comunque ha più validità sui documenti tipo Word, Excel. Nelle fotografie, devo essere sincero, non mi sono mai posto il problema. Possiamo andare a controllare, però. Poi vedete che ci sono due attributi, sola lettura e nascosto. Allora, il nascosto io vi consiglio di lasciarlo perdere, perché se ci cliccate sopra quello sparisce. Vedete che ci sono due attributi sotto? Uno è sola lettura e l'altro è nascosto. Se cliccate su nascosto, quello sparisce. Non è che sparisca nel senso che si infila nel cestino o altro, semplicemente non viene più visualizzato. Allora, se non siete praticissimi, consiglio spassionato, lasciate perdere quell'opzione lì. Oppure c'è scritto nascondi, è un'altra cosa ancora. Viceversa, il sola lettura vi permette di rendere il file in sola lettura, quindi non ci potete più fare delle modifiche. Niente di male, se un domani delle modifiche ce le volete fare, rientrate in questa mascherina e gli togliete sola lettura. D'accordo? Quindi se date un file a un collega e non volete che il collega ci vada a fare dei pasticci sopra, lo mettete in sola lettura e quello pasticci non ne può andare a fare. Chiaro che, attenzione, non è da leggersi come una protezione, perché se il collega fa clic destro proprietà, gli toglie il protetto e può farci quel diavolo che vuole. È da vedersi come una sorta di primo deterrente, ok? Ok. E con questo terminiamo le proprietà del file. Quindi, ripeto, in questa finestra più che altro quello che mi interessa particolarmente sono, primo, le dimensioni e, secondo, le tre date. Ok. Andiamo a vedere le proprietà di più file. Il meccanismo è sostanzialmente identico. Quindi seleziono questa volta non un file ma più file, ci faccio clic destro sopra e clicco su proprietà. Il meccanismo è identico a quello di prima, solo che invece di selezionare un singolo file ne seleziono più di uno. Quindi seleziono ad esempio questo, questo e questo file, vedete che sono tre. Oh, attenzione, perché il clic destro lo devo fare su uno dei tre, cioè non è che lo devo fare dall'altra parte. Mi raccomando sempre questa cosa, il clic destro non è che poi lo dovete fare su uno dei tre. Quindi clic destro, proprietà. E lui qua mi dà delle informazioni un pochino diverse. Mi dice innanzitutto quanti file e cartelle sono. Vedete che vi dice 3 file, 0 cartelle. E poi l'altra cosa interessante è la dimensione totale. È chiaro? Quindi mi dice quanti file sono, quanti file e cartelle sono e quanto tutti insieme pesano. Al solito pesano in termini di byte. Qua mi dice che nel complesso pesano 2,02 megabyte. Ok, signori? Ora, non statevelo a scrivere, ma lo stesso meccanismo ci sarà anche per le proprietà di una cartella. Proviamo a prendere una cartella, ad esempio la cartella programmi. Se io vado a fare clic destro su programmi e poi su proprietà, vedete che mi dà un'informazione del tutto analoga. Cioè mi dice, guarda che questa cartella qua ha una dimensione totale su disco di 1,2 GB, e il suo contenuto è di 8.982 file e 1.040 cartelle. Ok? Quindi questo meccanismo lo potete fare, lo potete applicare. No, quanto c'è in quel momento? Esatto. Cioè, le proprietà di un file, di una cartella o di più file, mi dicono quanto occupano in quel momento. Esatto. Quindi scrivetevi magari soltanto le proprietà della cartella, vi dà informazioni analoghe a quelle di più file. Allora, per arrivare alle fotografie, sì, sono andato su immagini campione, e qua ce ne sono. Ora, vediamo, per contro, le proprietà di un'unità di massa. Vediamo le proprietà di un'unità di massa. L'unità di massa abbiamo detto essere C, Z, D, altro, quindi i dischi in generale. La procedura da seguire è sempre la medesima. Questa volta clicco e su chi clicco? Sul disco. Quindi seleziono l'unità di massa, quindi il disco, clic destro, clic su proprietà. Quindi in questo caso, ovviamente a casa fatelo su C, per il semplice motivo che se non avete CD-ROM o che avete inserito in quel momento, quindi clicco su C, clic destro, clic su proprietà. Ora, quello che vi viene fuori è una finestra nettamente diversa da quelle precedenti. Cioè, mentre prima vi dava quanto i file, le cartelle occupavano, qua io sto andando ad analizzare non tanto i libri che stanno dentro la biblioteca, bensì la biblioteca stessa. Per cui lui a questo punto mi dice quanto spazio c'è di libero e quanto spazio c'è di occupato. Quindi quel grafichino torta con due colori differenti, vi dice quanto spazio è libero e quanto spazio è occupato. Capite dunque che se io voglio spostare o copiare uno o più file dentro un'unità di massa, la chiavetta per intenderci, prima devo sapere quanto pesano i file complessivamente e poi devo sapere quanto spazio c'è libero nella chiavetta. In questo modo io so se riesco ad infilare quei file, quelle cartelle, quegli oggetti dentro la chiavetta stessa. E posso mettere contemporaneamente anche questo qua vicino, prendo la chiavetta e il disco che devo... Sì, sì, posso metterli su due Explorer risorse, li posso mettere uno a fianco all'altro, certo. D'accordo, signori? Allora, su questa finestra, in realtà, la prossima lezione andremo a vedere anche gli strumenti. Iniziate comunque a dargli un'occhiata. Ok? Quindi a casa provate le proprietà di un file, le proprietà di una cartella, le proprietà di più file, e soprattutto le proprietà di un disco. Sempre a casa provate a guardare le altre schede. Ad esempio, questa scheda qua, che vedremo poi la prossima lezione, la scheda strumenti, vi dà tre pulsanti che sono lo scan disk, il defrag e il backup. Provate ad eseguire lo scan disk ed il defrag. Lo vedremo la prossima lezione, cosa vuol dire. Però iniziate a vederlo. Tanto danni non ne fate, anzi, gli fate solo bene al computer. Provate a vedere che cosa fa lo scan disk e provate a vedere che cosa fa il defrag. Prossima settimana. Prossima settimana sono veramente senza voce e sto soffrendo tantissimo. Scan disk e defrag. Quindi questa settimana, signori, provate le cose che ci siamo raccontati, accenda pure, e iniziate a guardare lo scan disk e il defrag nella scheda strumenti. D'accordo? Ci vediamo allora venerdì 9. Buon fine settimana a tutti.